Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A Terni, manifestazione per le acciaierie, anche fischi durante i comizi di Angeletti e Camusso. Al vertice euroasiatico, giro di incontri sulla crisi ucraina. Le posizioni restano distanti, molte divergenze, dice Putin. 4 miliardi dalla lotta all'evasione. Siamo ottimisti, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate a Radio 24. Maroni, se confermano i tagli, chiuderanno degli ospedali. Un nuovo giallo sul caso Pantani. La camorra avrebbe scommesso sulla sua uscita dal Giro d'Italia nel 99, quando fu sospeso per l'ematocrito alto. Il domicilio della clochard è nella stazione, decide un giudice. Le ferrovie costrette a tenere aperto lo scalo di Trastevere anche di notte. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, tra un attimo andremo alle cronache dal vertice euroasiatico di Milano, dove sono in corso le conferenze stampa finali e quindi ci sono degli aggiornamenti, ma prima di tutto la cronaca da Torino, il corteo della FIOM, al quale si sono uniti alcuni studenti, ci sono stati scontri con la polizia, ci racconta tutto in diretta Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, è così Simone, buongiorno. Circa 10.000 gli operai che stamattina hanno partecipato a questa manifestazione organizzata dalla FIOM a Torino contro la riforma del lavoro. Al corteo delle tute blu, però, lo dicevi, si sono uniti anche alcuni studenti ed esponenti dei centri sociali che hanno cercato di raggiungere il Teatro Regio, dove oggi inizia il vertice europeo dei ministri del lavoro. Ci sono stati dei lanci di petardi e di bottiglie contro le forze dell'ordine che a loro volta hanno risposto con lacrimogeni e cariche. Al momento si contano 5 fermi e anche diversi feriti, compresi 3 poliziotti. La situazione è ancora tesa dalle violenze. Dobbiamo dire che ha subito preso le distanze il leader della FIOM, Landini, che ha criticato gli antagonisti, protagonisti di queste violenze, ma anche le forze dell'ordine che, a suo dire, hanno avuto una reazione eccessiva che ha coinvolto anche alcuni metalmeccanici che nulla avevano a che fare con questi disordini. Situazione completamente diversa invece a Terni, lo dicevi nei titoli, dove stamattina sono scesi in piazza gli operai delle acciaierie contro i licenziamenti annunciati dalla ThyssenKrupp. In questo caso non ci sono state tensioni, anzi al corteo dei sindacati si sono uniti anche molti abitanti della città che hanno così voluto esprimere la loro solidarietà agli operai che rischiano di perdere il lavoro. Simone, è tutto. Grazie Andrea per questi aggiornamenti. Veniamo dunque al vertice euroasiatico che si sta svolgendo a Milano, al centro dei colloqui della mattina, le vicende dell'Ucraina. Sergio Nava sta seguendo i lavori per noi. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. In corso la conferenza stampa conclusiva, vertice che si è concluso circa 3/4 d'ora fa. Sta parlando in questo momento il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, che ha iniziato parlando di Ebola e della minaccia che rappresenta l'Europa. Ne parlerà in particolare la Commissione, ne discuterà la prossima settimana. Prima di lui hanno parlato il premier Matteo Renzi, che ha sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione tra Europa ed Asia. Si è detto felice per il risultato di questi 2 giorni di summit. E il presidente del Consiglio europeo uscente, Herman Van Rompuy, l'Asia e l'Europa devono unirsi per le sfide globali, ha detto Van Rompuy. In realtà conferenza stampa abbastanza di drammatica, non ci sono vere e proprie conclusioni vincolanti, ma è stato più un forum di discussione, anche perché il vero tema della mattinata, come dicevi poco fa tu, è stato quello dell'Ucraina, con i vertici in prefettura, poi seguito da altri incontri qui al centro Milano Congressi. Sentiamo subito un passaggio di quello detto Matteo Renzi stamattina in prefettura. We stress the importance to continue in direction of... Ha detto che c'è stato un passo in avanti con l'incontro appunto tra Putin e Poroshenko. In realtà appunto rimangono molto ampie le differenze, soprattutto c'è una frattura, potremmo dire, tra la posizione russa e quella di Germania e di Gran Bretagna. Anche la Merkel è arrivata e non ha rilasciato dichiarazioni, sintomo che le cose non andavano benissimo. E anche il premier David Cameron è stato abbastanza duro al suo arrivo. Sentiamo un passaggio di Cameron. Russia now needs to take the actions to put in place all that's been agreed. Sostanzialmente David Cameron ha detto, finché la Russia non ritira uomini e armi dall'est dell'Ucraina, noi manterremo le sanzioni europee. E più dettagliato è stato invece il presidente della Commissione Barroso, che ha invece spiegato come sia allo studio la possibilità di usare anche droni europei per sorvegliare le frontiere tra Russia e Ucraina. Ha parlato della possibilità di tenere elezioni locali sotto il monitoraggio internazionale, con standard internazionali nell'est ucraino, e ha ribadito che occorre implementare gli accordi di Minsk. Le posizioni insomma restano abbastanza distanti, però atterrirla con Renzi. Qualche piccolo passo avanti oggi forse lo si è fatto, certamente non risolutivo, e da Milano è tutto. E grazie al nostro Sergio Nava per questi aggiornamenti. Noi adesso passiamo a parlare della legge di stabilità. Come sapete c'è la protesta dei presidenti di regione. Più avanti andremo a sentire il presidente del Veneto, Luca Zaia. Intanto però, e forse possiamo caricarlo, possiamo sentire l'intervista che ha realizzato Valeria De Rosa poco fa con un presidente del Sud. Si tratta di Antonella Stasi, che in realtà è il presidente facente funzionario della Regione Calabria. Sentiamo che cosa le ha detto, se l'intervista è pronta. Non ce l'abbiamo ancora. Dunque, saluto invece Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi. Anche oggi ampio spazio naturalmente sul quotidiano, 10 pagine in particolare nella sezione norme e tributi, dedicato appunto alle novità che ci sono nella manovra, quantomeno nella bozza. In particolare il tuo lavoro oggi si è concentrato sui comuni, in parte noi ne abbiamo parlato ieri, però vorrei capire, visto che sono previsti dei tagli anche per loro e dall'altra parte però la possibilità di derogare al patto di stabilità, da quel che abbiamo compreso in realtà cambiano proprio le regole contabili per i comuni. Sì, cambiano soprattutto gli effetti e la distribuzione dei tagli, nel senso che con le misure previste in manovra il patto di stabilità e soprattutto l'impossibilità di spesa, mettiamola così, si concentrerà soprattutto nei comuni che hanno avuto difficoltà di riscossione, perché i comuni scrivono a bilancio una serie di entrate, ma se la macchina amministrativa non funziona bene, poi gli incassi, diciamo, non seguono le previsioni di bilancio. Dove gli incassi sono più zoppicanti e quindi più lontani dalle previsioni di bilancio, sarà più difficile spendere. È un cambio drastico nel concetto di virtuosità, diciamo così, mentre negli enti che hanno incassato più o meno quello che hanno scritto a bilancio si scarica tutto lo sconto del patto, quindi possono avere maggiori spazi per gli investimenti locali. Quindi in sostanza Gianni, è finalmente un meccanismo premiale nei confronti dei comuni più virtuosi, che è la cosa che si auspicava da tempo. Esattamente, il tentativo è quello ed è diciamo un tentativo molto meglio riuscito rispetto alle prove degli anni scorsi, che invece sono finite in nulla. Lo vedremo comunque alla prova dei fatti, e grazie al nostro Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Come vi dicevo, appunto, molti dettagli anche su molte altre cose, a partire dalla questione del TFR sul Sole 24 Ore oggi in edicola. È pronta l'intervista alla presidente della Regione Calabria, presidente facente funzioni, Antonella Stasi, realizzata dalla nostra Valeria De Rosa. Sentiamo cosa le ha detto. Si parla di 4, ma 4 sono sottostimati rispetto probabilmente a quella che sarà la cifra complessiva. Qualcuno dice potrebbero superare i 6 miliardi, veramente sarebbe molto assurdo. Per la Calabria questi numeri che cosa vorrebbero dire? Per la Calabria è un disastro, perché questi numeri vorrebbero dire non meno di 120 milioni per una regione che proprio quest'anno dovrebbe finalmente riuscire ad arrivare a un pareggio di bilancio grazie a una sanità che è stata in questi 4 anni, ha subito ingenti tagli. Riportare questi ulteriori tagli vuol dire ritornare indietro con il piano di rientro, richiedere ai calabresi di fare ulteriori sacrifici, ulteriori tagli e probabilmente ancora nuove tasse. Cosa pensa della proposta del presidente Rossi sul super ticket? Per la Calabria sarebbe assolutamente impraticabile un'operazione del genere, perché purtroppo la gravità delle situazioni sociali lasciano intravedere uno scenario ovviamente molto difficile. È preferibile togliere gli 80 euro sicuramente del bonus alle famiglie piuttosto che toglierne in servizi sanitari probabilmente 240. E questa è la cifra che abbiamo valutato in qualche modo essere paragonabili rispetto al taglio effettuato. E questo scontro con le regioni naturalmente continua un po' a dominare il discorso sulla legge di stabilità, però non c'è solamente questo. Vincenzo Miglietta, eccoci, buongiorno. Presidente Sì, buongiorno Simone. Regioni, lo abbiamo ascoltato, ancora protagoniste della polemica con il governo sul contributo di fatto che gli enti locali daranno alle coperture della manovra economica. Di poco fa l'allarme lanciato dal governatore della Lombardia Maroni: se resta così la legge di stabilità avrà conseguenze catastrofiche, nella mia regione si rischia la chiusura chiusura di almeno 10 ospedali, l'aumento dei ticket, delle addizionali IRAP e l'IRPEF e tagli a infrastrutture e trasporti. Ed ancora, per il presidente della regione Puglia Vendola, se il provvedimento fosse confermato sarebbe opportuno consegnare le chiavi dei governi regionali a Palazzo Chigi. A frenare però il presidente della conferenza delle regioni Chiamparino, che dice il tema è complesso ma risolvibile se ci incontriamo con Ministero dell'Economia e Presidenza del Consiglio. A promuovere la legge di stabilità invece il presidente della Repubblica Napolitano, sentiamo le sue parole. Mi pare che ci sia un riconoscimento abbastanza ampio, che ci sono misure importanti per la crescita, sia direttamente per quello che riguarda la politica degli investimenti e sia indirettamente per quello che riguarda la riduzione della pressione fiscale. La via maestra per abbattere il debito è la crescita, ribadisce il ministro dell'economia Padoan in un'intervista al Sole 24 Ore. Infine la CGIL per la Camusso è sbagliato tagliare servizi come la sanità. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. C'è il via libera di oggi della Commissione Ambiente della Camera, l'emendamento al decreto sblocca Italia riservato a Genova, colpita la scorsa settimana dall'alluvione. Poi più avanti torneremo a Genova nel corso di Effetto Giorno. La proposta di modifica presentata dal governo supera di fatto il blocco imposto alla realizzazione delle opere dai ricorsi al TAR, opere che dunque potranno partire. Veniamo alla cronaca, la vicenda della bimba morta dopo una caduta dal balcone a Caivano, e a questa vicenda è dedicata oggi l'inchiesta di Daniele Biacchessi. E non abbiamo nemmeno l'inchiesta di Daniele Biacchessi, evidentemente oggi c'è qualche problema con i file. Abbiamo invece in studio il nostro Dario Ceccarelli per parlare di un'altra inchiesta, è una vicenda sportivo-giudiziaria, quella che riguarda Marco Pantani. La sospensione di Pantani dal Giro d'Italia nel 99 potrebbe essere stata, dicono alcune indiscrezioni giudiziarie, da ambienti vicini alla camorra al giro di scommesse clandestine. Ci lavora la procura di Forlì, che ha aperto un'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva e alla truffa. Il 5 giugno del 99, lo ricordiamo, dopo un esame Pantani fu sospeso perché il suo ematocrito era troppo alto e qualcuno, si scrive, avrebbe manomesso quei controlli. Un'ipotesi avvalorata anche da alcuni racconti di Renato Vallanzasco. Una figura, quella di Pantani, Dario, che non riusciamo a lasciare in pace. Sì, caro Simone, non si sa più cosa dire. Ormai è un po' come Garlasco, il giallo di Via Poma. Questa testimonianza di Vallanzasco, Sasca, per esempio, era già uscita nella sua biografia, ma era molto vaga, senza nessun nome, tanto che fu scartata dagli inquirenti. La stessa mamma di Pantani, Tonina, incontrò il bandito, ma disse che non gli riferì nulla. Ci sono due problemi su Pantani. Uno è giudiziario, con due inchieste riaperte grazie anche all'abilità mediatica degli avvocati della famiglia di Pantani, su cui ovviamente vanno chiariti tutti gli aspetti più o meno oscuri e frettolosamente archiviati. Poi c'è un'altra questione che si intreccia e riguarda il mito di Pantani. Queste inchieste infatti portano tutte da una parte, e cioè che Marco sia stato vittima di un diabolico complotto che l'ha portato fino alla morte. E questo perché? Perché si fa fatica a accettare che un corridore come Pantani, un mito, sia ricorso al doping, all'inganno, alla frode. Purtroppo, va ricordato, caro Simone, in quegli anni il doping ematico era la regola e Pantani non si capacitava che solo lui dovesse pagare il dazio di un costume che era comune nei ciclisti. Litigò con i giudici, con gli altri corridori che lo accusavano di voler vincere tutto, ma alla fine entrò in una crisi esistenziale che lo portò purtroppo alla cocaina, alla depressione. Chi lo conosce bene sa che avrebbe avuto bisogno di una comunità di recupero, di terapie. Purtroppo, e questo è uno dei dazi del doping, che il doping porta ad altre dipendenze. Questo è stato il vero dramma di Pantani e nessuna inchiesta purtroppo questo ce lo può riportare. Grazie a Dario Ceccarelli per questa riflessione. Veniamo appunto all'inchiesta di Daniele Biacchessi sulla vicenda di Caivano. Le uniche cose certe nel mistero di Caivano sono che Fortuna Loffredo, di 6 anni, il 24 giugno scorso è caduta dal balcone del 7° piano dell'isolato 3 della palazzina dello IACP nella zona del Parco Verde, e che la bimba ha subito un abuso sessuale cronico perpetrato per tanto tempo, come scrive l'esperto Nicola Balzano nella sua ultima perizia giudiziaria. L'altro elemento certo è che la madre, Domenica Guardato, aveva lasciato la bimba mentre giocava al 7° piano del palazzo, e al suo ritorno da Napoli la figlia figlia era deceduta cadendo dal balcone. Le direzioni sono molte. Partiamo dalle accuse della madre. Lei sostiene che il presunto orco vive proprio in quel palazzo, che conserva sospetti circostanziati, ma non possiede prove provate, solo deboli indizi. E non si può mandare in carcere una persona solo per alcuni sospetti. A luglio, pochi giorni dopo la morte di Fortuna, la procura di Napoli Nord apre un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario e violenza sessuale. Gli investigatori scoprono che il 27 aprile scorso, giusto 2 mesi prima della morte di Fortuna, un altro bimbo, Antonio Giglio, 3 anni, è caduto nel vuoto da un balcone dello stesso palazzo. Una coincidenza? Ciò che colpisce è che nessun abitante dell'interno 3 della palazzina della zona del Parco Verde ha risposto all'appello lanciato dalla madre e dal parroco di Caivano, Don Maurizio Praticello. Chissà, parli. Al momento, in quella zona ad altissima densità criminale, nessuno ha dunque collaborato, nessuno ha offerto anche un solo debole indizio per giungere alla verità. Ciò che mette paura è che a Caivano sembrano tutti muti e sordi, imprigionati in un muro di omertà e di silenzio. Facciamo parlare di arte, perché si inaugura domani un'importante mostra di Van Gogh a Milano. Adriana Fracchi è andata alla presentazione, anzi ancora là. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno, mi trovo proprio a Palazzo Reale, dove si sta per aprire la mostra di Van Gogh, L'uomo e la terra. Sarà aperta fino all'8 marzo del 2015, una mostra che presenta circa una 50 di opere dell'artista olandese e che racconta del suo rapporto con la natura e con la terra. È in vista di Expo Milano 2015, che è partner di questo evento, che la rassegna vuole mettere in relazione proprio le opere esposte con il tema dell'esposizione universale, che sarà Nutrire il pianeta, energia per la vita. Curata da Kathleen Adler, questa mostra presenta opere che provengono per lo più dal Kröller Müller di Otterlo, a cui si affiancano anche opere che arrivano dal Van Gogh Museum, dal Museo Sumaya Foundation Carlo Slim di Città del Messico, del Central Museum di Utrecht, prodotta da Palazzo Reale insieme ad Artemisia e al gruppo 24 Ore Cultura. Quindi Van Gogh torna a Palazzo Reale e sarà sicuramente una mostra di grande successo, vi invitiamo ad andare a visitarla. È tutto. Grazie Adriana. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Scontri tra polizia e studenti durante il corteo della Fiomma a Torino, sequestrato un furgone con bastoni e pietre. A Terni, manifestazione per le acciaierie, fischi durante i comizi di Angeletti e Camusso, mentre sulla vertenza meridiana l'azienda avrebbe proposto la riduzione degli esuberi, 1.366 rispetto ai 1.634 iniziali. Al vertice euroasiatico, giro di incontri sulla crisi ucraina, le posizioni restano distanti, molte divergenze, dice Putin. Nuovo giallo sul caso di Pantani, la camorra avrebbe scommesso sulla sua uscita dal Giro d'Italia del 99 quando fu sospeso per l'ematocrito alto. E riapriamo questa seconda parte di Effetto Giorno parlando della manovra. Siamo ottimisti sulla possibilità di centrare l'obiettivo di circa 4 miliardi di lotta all'evasione indicato proprio dalla legge di stabilità. Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, intervenuta questa mattina a Mix 24. Sentiamola. Senta, dottoressa Orlandi, ma qual è l'obiettivo del 2015 per l'Agenzia delle Entrate? L'obiettivo è quello di cambiare verso, cioè quello di riuscire a instaurare un rapporto sereno, non diverso, con i contribuenti e far emergere un pezzo di quell'evasione. Ma ha un numero? Vabbè, quei 4 miliardi che deve dare a... Allora, noi abbiamo ogni anno, per far capire, una convenzione col Ministero dell'Economia che stabilisce quali sono gli obiettivi. E quanto gli dovete dare quest'anno? Ma io penso gli dovremmo dare sui 15 miliardi. Sui 15 miliardi. Così dunque Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, bentornato ai nostri microfoni, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Il suo collega di Regione e anche di partito, Roberto Maroni, dice se è così come ce l'hanno presentata saremo costretti a chiudere ospedali. Lei che dice? Ma sì, non è assolutamente il voler annunciare una tragedia per fini elettorali o politici. La verità è che noi siamo assolutamente favorevoli al taglio delle tasse, a questa manovra di 18 miliardi, però altrettanto vero che poi la copertura, quindi questi 18 miliardi, devono essere ritrovati non tagliando orizzontalmente a realtà virtuose come la nostra, ma bensì cercando di scovare fino in fondo il malagestio, la si scova ad esempio applicando i costi standard. I costi standard avrebbero un gettito di 30 miliardi di euro all'anno. C'è la Presidente della Regione Calabria che è stata, l'ha intervistata una nostra collega poco fa, Presidente facente funzioni, come lei sa benissimo, insomma, che non è esattamente un modello di gestione virtuosa la Calabria, naturalmente, però dice, guardate, conviene togliere il bonus degli 80 euro e dare i soldi a noi delle regioni, perché con il calo dei servizi sanitari che verrà applicato a causa dei tagli alle regioni, a questo punto per i cittadini conviene che il bonus di 80 euro si tolga. Ma guardi, gli 80 euro occupano circa 6 miliardi di euro a livello nazionale. La verità è che queste manovre e soprattutto questa legge di stabilità sancisce e decreta definitivamente che il governo Renzi, Renzi in particolar modo, non ha il coraggio di far emergere la vera malagestio. Ripeto, non possiamo ancora accettare che 22.000 forestali della Sicilia siano barattati come i 400 forestali del Veneto, o che un pasto in ospedale in Veneto costi 6 euro e mezzo e in giro per l'Italia arrivi a costare anche 60-80 euro. Lei capisce che se il taglio è orizzontale, da me il pasto in ospedale non lo compri più, e in giro per l'Italia continuerai a comprarlo e a sprecare. Un altro suo collega, il presidente pugliese Vendola, dice consegniamo le chiavi delle regioni al governo. Ma guardi, i veneti hanno fiducia nel loro governatore, io le chiavi a Roma non le consegnerò mai, piuttosto premeremo ancora di più su tutta questa stagione referendaria. C'è da dire che la mia regione, che è virtuosa, è riconosciuta dal governo come regione simbolo per la virtuosità, potrebbe indicare la via. È una via, ad esempio, che indichiamo tutti gli anni versando il nostro residuo fiscale. Siamo solo 5 regioni in Italia che lasciano tasse a Roma. Noi anche quest'anno abbiamo lasciato 21 miliardi di euro. Ci chiediamo cosa fanno a Roma dei nostri 21 miliardi. Grazie a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e saluto Franco Fiumara, capo della protezione aziendale delle Ferrovie dello Stato. Buongiorno Fiumara. Buongiorno a voi. Allora, noi nei titoli l'abbiamo riassunta molto brutalmente la vicenda. Un giudice ha stabilito che il domicilio di una clochard è la stazione Trastevere di Roma, cosa che vi costringe a tenere aperta la stazione tutta la notte. Ci spiega innanzitutto, e poi verremo a quelle che sono le vostre valutazioni come azienda, come è stato possibile, come si è generata questa cosa? Ma siccome si è generata non siamo noi a poter rispondere. Si tratta comunque di una persona che deve nei confronti si dà esecuzione a una misura cautelare in un ambiente a nostro giudizio assolutamente inidoneo, uguale a una stazione. Che è appunto la stazione di Trastevere, insomma, perché lei ha dovuto dare di fatto al Tribunale di Sorveglianza un domicilio, le hanno chiesto dov'è questo domicilio, lei ha detto la stazione di Trastevere e il giudice ha stabilito che è la stazione di Trastevere, questa è la sostanza, no? Esatto, avrebbe potuto ben darne anche altri di domicili, quindi temo che non sia il domicilio corretto questo. Sotto nessun profilo. Voi come avete reagito dal punto di vista legale? Noi abbiamo immediatamente avviato un'istanza al Tribunale attraverso i Carabinieri perché sia rivista questa decisione, perché nei confronti di questa persona siano adottati provvedimenti di qualunque natura il Tribunale decida, ma certamente non in una stazione. Dice certamente non in una stazione. Mi sembra che tra l'altro questo evidenzi, Fiumara, un problema più complessivo naturalmente che riguarda appunto i senza tetto nelle stazioni. Sono in aumento i senza tetto dappertutto. Ovviamente le stazioni sono un volano dell'economia, della mobilità, dei quartieri, delle città dove sono inserite e sono uno dei luoghi dove questo fenomeno diventa più evidente semplicemente. Ci sono le aree che stanno soffrendo molto, quelle su cui siamo calati anche noi come infrastruttura. Ovviamente offriamo una serie di possibilità, vuoi di ricovero, vuoi di presenza di esercizi commerciali, quindi anche di denaro che gira, quindi siamo appetibili, ma è una sofferenza dell'area urbana. È una sofferenza dell'area urbana che naturalmente si riflette evidentemente sulle stazioni. E per la quale peraltro bisognerebbe che fossero attivati sistemi di assistenza sociale ben più importanti e imponenti di quelli che fin qua si sono fatti, evidentemente, ma anche una risposta del sistema di giustizia forse anche un po' più efficace, mi permetto di dire, perché abbiamo una serie di persone che hanno foglie di via o altre misure che continuano a permanere nelle nostre istruzioni, creando una situazione di forte disagio e anche di illeciti che colpiscono l'azienda e i clienti. Avete una dimensione di questo fenomeno o non, è impossibile far numeri proprio perché naturalmente non sono tracciabili, sono senza tetto, insomma? No, la dimensione ce l'abbiamo. Su Trastevere, ad esempio, ci sono circa una decina di senza tetto che più o meno si aggirano in maniera come dire, costante. Più che un senza fissa dimora, in effetti è una dimora nei pressi della stazione, che chiudiamo la notte anche per questo. Su Termini già ne gravano tra i 50 e gli 80, poi è un fenomeno stagionale, periodo estivo e di caldo, diminuiscono nel momento dell'inverno, del freddo, raddoppiano. A Trastevere arriviamo a 20-30, a Termini arriviamo intorno a un centinaio, e stiamo mettendo in piedi tutta una serie di misure per evitare che questo possa diventare una situazione non gestibile. Ovviamente queste misure sono le nostre, sono di Ferrovie, sono le misure che può prendere una qualunque società. Certo. Lei dice poi per il resto ci vuole la pubblica sicurezza, come è naturale che sia. Paese, certo. Ci vuole il paese che dia una risposta complessiva più organizzata forse. Grazie, Franco Fiumara, capo della protezione aziendale delle Ferrovie dello Stato. Noi prima di chiudere ci andiamo a sentire un file audio di questa notte, a chi fosse sfuggito la puntata ieri di Servizio Pubblico. Cosa è successo? È successo che Marco Travaglio si è alzato e se n'è andato. È successo dopo il suo editoriale, durante il confronto con il governatore della Liguria Claudio Burlando e dopo una bella litigata con Santoro. Sentiamo. Ho capito, ma se la prende con quando chi vuole. Quando governerò per 30 anni sostiene, andrò in televisione a rispondere delle porcate che ho fatto. Ma se lei sostiene delle porcate che ha fatto lei con cemento a Genova. Adesso mi faccia parlare perché tocca a me. Qui ma se lei sostiene che lei ha tirato in ballo e io le rispondo. Sì, ma non è giusto questo. Non è giusto. Non è giusto. Ha appena ricevuto delle critiche, è giusto che possa replicare. Basta, questo è un luogo democratico. Basta, non si insulta le persone. È un luogo di discussione. Io non ho insultato nessuno. Basta, la signora ha detto la sua, Burlando diceva. Diritto di rispondere. Le borse vanno bene, più 2,25% il FTSE MIB, ne parliamo tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Scontri tra polizia e studenti durante il corteo della FIOM a Torino. Al vertice eurasiatico giro di incontri sull'Ucraina, posizioni distanti e molte divergenze, dice Putin. 4 miliardi dalla lotta all'evasione, siamo ottimisti, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate a Radio 24. Il domicilio del clochard è nella stazione, decide un giudice, le ferrovie costrette a tenere aperto lo scalo di Trastevere anche di notte. La borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, buongiorno. Buongiorno. Da Radio Core Il Sole 24 Ore, finalmente il rimbalzo tanto atteso sembra essere arrivato. Incrociamo le dita perché manca ancora mezza giornata di contrattazioni. Sì, dopo aver perso oltre il 5% in due sedute, Piazza Affari oggi rimbalza, è trainata dai bancari e da alcuni dei titoli più colpiti dalle vendite nei giorni scorsi. Secondo gli operatori è un movimento fisiologico, appunto dopo la violenta correzione a cui abbiamo assistito. Il FTSE MIB sale dell'1,5%, lo share dell'1,57% e questo in sintonia con le altre borse europee. Unico titolo negativo, CNH Industrial. Come mai, Isabella? Ma sì, CNH perde lo 0,6%, ma da tener conto che il titolo ieri era positivo. Al palo c'è anche Tenaris che guadagna appena uno 0,1%, questo per la cautela degli analisti dopo un Investor Day che ha confermato i timori sugli impatti negativi derivanti dal prezzo del greggio in arretramento sul titolo. Per il resto vanno invece molto bene i titoli bancari, Banco Popolare più 4, BPM più 4, Monte dei Paschi più 3%, dopo che la Consob ha posto un divieto alle vendite allo scoperto per tutta la giornata. Grazie anche per oggi a Isabella Tasso e ai colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'abbiamo promesso ieri che non avremmo lasciato sola Genova, adesso che si continua a scavare nel fango, ebbene quindi continuiamo a parlarne, in particolare oggi perché ricorre una settimana dall'alluvione e ancora naturalmente la situazione non è tornata alla normalità. Ci torneremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, forse non quotidianamente, ma ne parleremo. Saluto Roberto Panizza che è un imprenditore genovese, buongiorno Panizza. Buongiorno, buongiorno. Quanti siti alluvionati di sua proprietà o di sua gestione? Abbiamo sei punti vendita purtroppo di produzione danneggiati in questo momento. Lei che cosa fa di mestiere? Sono negozi di gastronomia, specialità dolciarie, un ristorante e una produzione di pesto genovese. Tutto alluvionato, tutto pieno di fango. Tutto alluvionato, tutto più o meno nella stessa area e tutto sì, fermato. Adesso ci sono attività più danneggiate, altre meno, a seconda poi delle posizioni, della tipologia, ma comunque insomma il danno è stato generato. Quanto conta di metterci a rimettersi in sesto e se ci riuscirà, glielo chiedo, scusi se sono così brutale. No, ci mancherebbe. No, ce la farei, dobbiamo farlo. Perché comunque abbiamo, cioè, è la nostra vita, è la mia vita, è tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, non si può abbandonare così. Abbiamo i nostri collaboratori che ci hanno dato una grande mano, i negozi ripartiranno addirittura forse già in giornata e quindi insomma dovrebbero essere già operativi. Abbiamo per fortuna il deposito centrale che si è salvato e quindi quello ci consente comunque di avere insomma, un minimo di operatività ancora adesso e dalla prossima settimana correndo testa bassa ripartiremo anche con la produzione di pesto e con la riapertura del ristorante. Il problema dell'alluvione è che poi appunto una volta ripulito il fango sembra che non sia successo nulla e invece i danni rimangono. Immagino anche i macchinari, tanto per fare un esempio, insomma, no? Sì, infatti l'operatività sarà ridotta, nel senso ridotta al minimo, ma questo ci consente di rimanere comunque attivi sul mercato, accontentiamo e di rimanere i in piedi. Quanti dipendenti ha lei? 24 dipendenti. E lei è stato alluvionato anche nel 2011? Anche nel 2011, sì. Anche nel 2011 è arrivata, l'abbiamo presa e abbiamo cercato di darci dentro, anche lì in una decina di giorni il ristorante è ripartito, il laboratorio all'epoca non fu danneggiato perché uscì il Ferreggiano e non il Bisagno, quindi insomma un pochino più piccolo e ha fatto un pochino meno danno, pur avendo fatto però più morti perché è successo di giorno anziché di sera, quindi lì insomma il segno è stato pesante. Panizza, ieri abbiamo avuto ospite il presidente della Camera di Commercio che ci diceva, da voci che sento in giro, ed è anche per questo che le ho fatto quella domanda, ci sono aziende che dicono noi non ce la faremo a riaprire. Ha sentito qualche suo collega in giro? Cioè, c'è un clima, una volontà di ripartire? O ha sentito anche gente sfiduciata completamente? Sì, ci sono persone estremamente sfiduciate. Poi bisogna pensare anche che insomma dietro appunto anche questa attività ci sono degli investimenti e la redditività delle aziende in questi anni è sempre più ridotta, quindi le nostre attrezzature sono attrezzature che nascono per durare 10 anni, 15 anni, hanno costi di conseguenza, ogni 3 anni cambiare tutto è impensabile. Ho conosciuto ieri una coppia di ragazzi che hanno investito tutto nell'apertura di una piccola pizzeria e che sono rimasti senza nulla, addirittura lì Fiuma è entrato dentro e si è portato via tutto, quindi non c'è più nulla e non sono gli unici. E questo proprio non è questione di volontà o meno, perché ripeto, da domani, voi vedo che mantenete viva l'attenzione, ma quando non si parlerà più di questo rimarranno queste persone sole con il loro conto corrente e se avranno risorse le potranno mettere in campo e se no non ci sarà nulla da fare, perché è così. Grazie,